Vendo tutto di Matteo Caccia. Ogni giorno quando mi sveglio e vedo la mia casa sempre più vuota, mi domando se stia facendo la cosa giusta. Poi penso al motivo per cui tutto è iniziato e ne sono felice. Il punto è sempre quello: capire perché tutto è iniziato. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un mobile da soggiorno. Sono le 16:10 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, oggi è martedì 20 aprile, è una giornata importante quella di oggi, ma ieri è stata una giornata altrettanto importante. Ieri per la prima volta, da quando ho cominciato a vendere tutto, ho buttato via una cosa. Ho buttato via un puff. Avete presente il puff? Paolino, è presente il puff? Quello di Fantozzi, dai, quello che ti siedi, sprofondi un po', poi s'assesta e stai seduto. Ce l'avevo da anni in casa ed era tra il divano e là dove c'era la televisione prima di venderla. Questo puff ci ho pensato un po' se venderlo oppure no, però era veramente conciato male e avevo paura di beccarmi un altro feedback negativo come quello della muta che arriva. Cioè, lo strappo, non me l'hai detto, allora ho detto, vale, lo butto via. Però avete presente quando avete lì una roba che un po' usi e un po' no, sei convinto che ormai la butterai via, ma non ti decidi. Passano mesi, passano anni nel mio caso, e non la butti via. Poi è successo veramente in un modo assurdo. Ci avevo mangiato sopra, c'erano delle briciole, l'ho preso, l'ho messo fuori dal balconcino per sbatterlo e mi sono detto: o lo faccio ora o non lo faccio mai più. L'ho lasciato cadere, è caduto in cortile, sono sceso, l'ho preso, l'ho disfatto e l'ho buttato nel sacco verde, nel sacco quello nero, quello della raccolta generica. Devo dire che c'è stata una sensazione di liberazione all'inizio, poi però mi sono detto che forse avrei comunque potuto non venderlo nel programma perché era veramente messo male, però avrei potuto metterlo sul marciapiede, che a qualcuno probabilmente alla fine sarebbe servito. 800 24 00 24. Oggi non per chi voglia riprendersi il mio puff che ormai è andato, solo le persone che hanno deciso di dare una seconda vita a quegli oggetti che hanno trovato. Se l'avete trovato sul marciapiede, se l'avete trovato in un garage, se avete trovato delle cose, che so io, in una cantina, per strada, in un cassonetto, qualsiasi cosa fosse, che fosse un mobile, che fosse una moto, un'automobile vecchia, abbandonata, che fosse magari anche un abito usato che avete preso e avete recuperato. 800 24 00 24, perché alla fine gli oggetti sono più forti di noi, no? Cioè sopravvivono anche agli abbandoni, sopravvivono se qualcuno gli dà un'altra possibilità. Ecco perché oggi voglio solo sentire persone che hanno trovato oggetti. Per lo più capita di notte per le strade della città, e per lo più capita quando si è studenti magari, quando si hanno pochi soldi, ma anche no, però, perché magari c'è un oggetto che a qualcuno non interessava più e invece a te interessa, lo trovi per strada, lo pigli, lo rimetti a posto e gli dai una nuova vita. 800 24 00 24, oppure 349 238 6666 per gli sms. Ad esempio a New York c'è questa roba per cui mi pare il mercoledì sera o il martedì sera, non ricordo più, cioè è proprio la sera in cui a Manhattan passano quelli che raccolgono la roba vecchia usata, e quindi i mobili e l'arredamento. Ed è usanza per molte persone che non hanno troppi soldi di andare in giro prima che passino quelli del servizio pubblico a raccogliere i mobili che sono stati abbandonati per rifarsi l'arredamento. Questa cosa capita nelle città, in Italia, a Milano capita con l'AMSA, per cui si prende l'appuntamento, tu lasci il tuo mobile per la strada e poi passa qualcuno a ritirarselo. È stato il caso proprio di questo mobile che vendo oggi, che è un mobile che ho trovato, adesso vi racconterò esattamente com'è andata. Prima però 800 24 00 24, oppure 349 238 6666, tutti gli oggetti, ripeto, mobili, elettrodomestici, macchine, auto e vestiti che avete recuperato e gli avete dato una seconda vita. C'è già qualcuno che l'ha fatto, ha scritto su Facebook. Chiara dice: io e mio padre prendevamo in prestito i ricambi se vedevamo un mobile o una lavatrice dello stesso tipo che avevamo a casa, sembravamo dei profughi. Alessandro ancora: io ho recuperato una poltroncina rossa di quella che negli anni 80 arredavano gli uffici della periferia bresciana, trovata una mattina a fianco di un cassonetto. Chicco: ne ho recuperato più di uno, l'anno scorso ho trovato un tavolino, l'ho smontato e ci ho fatto un quadro. Ecco, vale anche questo, se li avete presi e avete fatto diventare altro. 800 24 00 24, 349 238 6666. A proposito di fare diventare altro, ve ne leggo un altro di messaggio. Mario: io ho recuperato da un bidone delle ante enormi di un armadio, avevano lo specchio su un lato, molto utili. 800 24 00 24, ancora 349 238 6666. Veniamo invece al mio mobile da soggiorno, l'ho recuperato, se volete vederlo radio24.it per sentire la sua storia. Pronti? Via! Il mobile da soggiorno. Mobile basso colore arancione, 4 ante, di cui 2 in vetro smerigliato. Dimensioni, lunghezza 180 cm, altezza 50 cm, profondità 45 cm. Perfetto come porta televisore o come appoggio per i ninnoli della casa. Valore commerciale 450 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Quando ho bisogno di qualcosa, faccio di tutto per averla. L'ho visto anche nella spazzatura. Giulia non amava particolarmente questa mia abitudine. Però guardare le cose abbandonate per vedere se c'è qualche oggetto che mi può interessare è sempre stata una fissazione. Un po' come guardare nei bidoni della raccolta carta. Lì ci sono sempre riviste lette da altri, ma per me completamente nuove. Ad esempio, per anni il quadro più colorato e ammirato sulle mie pareti era stato recuperato da una discarica. Rappresentava una ragazza nordafricana vestita di un rosso vivo davanti a un muro bianco. Quando ho messo su casa, prima di passare all'IKEA e farmi fregare dal fai da te della mobilia, ho semplicemente girato in macchina per la città, quasi tutte le notti per una settimana. Perché è così, molta gente butta i propri pezzi d'arredamento per sostituirli con delle novità, quando questi avrebbero ancora anni di vita davanti. E così ho trovato sedie, reti per letto, dei tavolini, tutti oggetti destinati alla discarica. Esiste un servizio del Comune di Milano che ti consente di liberarti di oggetti ingombranti senza dover andare in discarica e senza nemmeno commettere reati. Chiami l'AMSA e prenoti il ritiro notturno. La sera del giorno programmato porti l'oggetto sul marciapiede e al mattino non c'è più. Costo zero e fatica poca. Comodo anche per quelli pigri, come me. Il mobile che vendo oggi però non ha fatto questa trafila. No, lui era stato abbandonato per strada di giorno. Quando l'ho visto passando in bici ho compreso che aveva qualcosa che non andava. Era troppo nuovo per essere vecchio. È troppo vecchio per essere nuovo. Quello era un oggetto che aveva perso la sua strada. Chissà, magari era stato il frutto di una lite familiare o di una separazione improvvisa, questo non lo saprò mai. Fatto sta che dopo avergli fatto la posta per un paio d'ore, per controllare che non fosse di qualcuno che se lo veniva a prendere, sono andato a prendere un furgone e me lo sono montato su, con l'idea di trascinarlo a casa. Anche da studente ho abbandonato degli oggetti ingombranti per strada, ma mi sono sentito talmente in colpa che ho promesso che non l'avrei mai più rifatto. E poi c'è sta cosa che quando le cose sono buttate lì in mezzo alla strada, mi fanno un po' tenerezza. Un po' come i cagnolini che aspettano il padrone al supermercato, no? E sono lì che tremano per il terrore che non torni probabilmente. Ecco, le cose non tremano, però secondo me un po' soffrono. Stanno lì sotto il sole o la pioggia, senza fare una piega, però anche loro si sentono abbandonati. Anche per quello io ci sto attento, perché soffro un po' per loro. In realtà poi però, da quando ho preso a stare attento agli oggetti abbandonati, ho capito diverse cose. La principale è che gli oggetti sono più forti di noi. Il loro dolore è solo una nostra proiezione. Loro sopravvivono agli abbandoni. Vivono tante vite, se qualcuno glielo permette. Basta riempirli di un po' di senso e metterli nel posto adeguato, e loro stanno bene. Le cose ci potrebbero insegnare molto. Non sono qualunquisti gli oggetti. È solo che non si guardano mai indietro. Ecco, a volte vorrei essere un oggetto. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid for hands and then away. Both under influence, we had divine said to know what to say. Mind is a race of faith to call for hands of above. Questo mobile di legno e cristallo me lo stavo per portare a casa per dargli un'altra possibilità quando mi hanno fermato i vigili. Guidavo il furgone che mi aveva prestato un amico. I documenti erano in regola, quindi ero molto tranquillo. Però, quando mi fermano quelli in divisa, io ripenso subito a tutte le infrazioni che posso aver compiuto nella mia vita. Mi è venuto in mente che in passato avevo falsificato la firma di mia madre sulle giustificazioni al liceo. 3 anni prima ero chiaramente passato col rosso a un semaforo pedonale. E qualche anno fa avevo scavalcato per entrare al concerto di Vasco. Insomma, c'erano numerose colpe che dovevo scontare. Ed ero già pronto col mio carnet di scuse. E invece i vigili mi chiesero il motivo per cui stavo abbandonando un rifiuto ingombrante per strada. E io un po' ci rimasi male, nel senso che è vero, l'avevo fatto, ma era stato anni prima all'università, come facevano a saperlo loro? Ovviamente loro invece si riferivano al mobile, quello di adesso, quello di allora, pensavano che lo stessi scaricando. Io fortunatamente mi spiegai, trovai il modo per convincerli del contrario, che anzi no, io lo stavo recuperando, che stavo pulendo la città. Fortunatamente l'edicolante aveva visto tutta la scena e quindi confermò la mia versione. I signori in divisa, vedendomi tutto rosso e preoccupato, capirono che ero uno qualunque e lì mi sorpresero. Mi aiutarono a montare il mobile sul furgone e poi fin su, in casa. Mi consigliarono perfino in quale parte del soggiorno sistemarlo. Il problema è che avevano un gusto pessimo per il decoro degli interni, quindi li ringraziai e poi lo misi dove volevo io. Certo è che quell'accidente di affare, non troppo vecchio, però non troppo nuovo, con la mia casa non c'entrava niente. Non so com'è, non l'avevo scelto io, non aveva nessun senso, insomma, in casa mia faceva schifo. Ho provato a tenerlo per un po', rivestendolo con panni africani, ci infilavo oggetti colorati, lo coprivo di libri. Niente però, dopo qualche mese non ci fu più nulla da fare. Lo abbandonai. Non per strada, però lo abbandonai, le nostre storie non si erano mescolate e lui meritava molto di più. Quindi lo portai a casa di mia nonna, a Romentino. Non che sia in villeggiatura, però almeno lì è utile a qualcuno e soprattutto sta fuori da casa mia. Non mi è antipatico, anzi, praticamente mi è stato maestro di vita, ma quel mobile con me non c'entra più nulla. Ecco perché, alla fine, nonostante i rischi corsi per prenderlo e tutto quello che mi ha insegnato, io questo mobile lo vendo. Il suo valore è di 450 euro, la base d'asta sono 99 centesimi. Se avete recuperato degli oggetti per strada e gli avete dato una seconda vita, 80024-0024. Stick with me, kid, you're stuck with me, kid, to keep my secrets. See, I'm hard to work with, but all the work is hardly worthless. Il video di questa canzone lo trovate sul profilo Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto, trovate un pochettino tutto, oltre agli oggetti anche spesso i brani che scegliamo insieme a Tiziano Bonini. Però c'è un'altra cosa interessante da vedere se avete internet davanti, e magari dopo lo mettiamo direttamente sul nostro profilo Facebook, perché mi scrive Fabio, credo, Fabio Bix: io recupero le scarpe e ci faccio delle opere d'arte, guarda, andate anche voi, il sito è fabiobix.it, no, non è così, è fabiobix.ilcannocchiale.it. Fa veramente delle cose fantastiche, ammetto, non impazzisco per l'arte contemporanea di recupero, però sono proprio delle cose belle. Bravo Fabio, complimenti. Poi ancora, ho recuperato due griglie per il pesce trovate per strada, le ho pulite e ora sono perfette. Ciao, io da studente a Bologna ho trovato un frigo davanti al cassonetto di fronte al portone di casa, con il mio coinquilino lo abbiamo portato in camera, abbiamo smontato il motore, ne abbiamo fatto una libreria, dizionari nel congelatore. Alessio, oggi recuperiamo il cadavere dell'Inter, cosa lo facciamo diventare? Diciamo che ne parliamo tra una settimana. 80024-0024 349-238-6666. Andiamo in provincia da Milano, da Paolo, che recupera, credo, delle piante. Giusto Paolo? Sì, ciao Matteo. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io ho un hobby, una passione, diciamo, raccolgo piante sulle rive, faccio l'agricoltore, quindi vabbè, mi è anche facile. Ma che tipo di piante, scusami Paolo? Piante autoctone, sono acace, sono carpini, olmi, querce. Ma e le raccogli perché sulle rive morirebbero? Oppure... No, le raccolgo per farne bonsai. Ah. Per farne bonsai. Ma sì. Quindi scusami, ma i bonsai sono piante normali che vengono... Sì, sono piante normali. Perdonami l'ignoranza, immagino a casa si staranno probabilmente rivoltando, non nelle tombe perché stanno ascoltando, però quelli, gli esperti di bonsai mi staranno odiando, però sono ma di fatto... Comunque è una cosa abbastanza comune che la gente mi chiede, vabbè ma non ci sono piante, difatti una delle truffe più grosse in questo campo è semi da bonsai. Ah certo, perché sono semi da piante normali. Esattamente. Ma e come fai a farle diventare bonsai, scusa Paolo? Beh, c'è tutta una tecnica abbastanza complicata. Io poi sono comunque un amatore, quindi... Vabbè, ma in cosa consiste? Nel lavorare sulle radici, sulle piante? Esattamente, si tratta in sostanza di ridurre le dimensioni. Allora, il concetto che sta cardine sta dietro al bonsai è ridurre una pianta, portarla in vaso e dare l'impressione a chi la guarda di vedere una pianta grande, vecchia, vetusta, vista da lontano. Ah, ok, perfetto. Quindi, insomma, è un po' l'idea di far diventare una cosa grande, farla rimanere piccola e farla rimanere bella. E darle una seconda vita. Ci Perfetto. Sono bonsai che hanno centinaia e centinaia d'anni. Immagino. Paolo, ti ringrazio molto e buona giornata. Grazie a te. Ciao, alla prossima. Andiamo alla provincia di Pistoia. Luca. Pronto, Luca? Sì, ciao Matteo. Ciao, buongiorno. Stai bene? Benissimo. Bravo. Tu recuperi oggetti, ma non di mestiere. Ma no, non di mestiere, anche se per un po' ho avuto un mercatino conto vendita, sempre dove si portano le cose. Sì. Quindi mi è rimasta questa passione, già l'avevo prima. Diciamo che sono un appassionato dei cassonetti, quello che gli altri abbandonano riesco e a cosa... dargli nuova vita. Dimmi una cosa particolare che hai fatto, così poi sento anche qualcun ma altro. Ma guarda, ho recuperato una vecchia pompa di benzina che stavano dismettendo, sai, quegli anni 50 con le puppine fondate. Mm-hmm. Certo, sì. L'ho svuotata e ci ho fatto un mobile bar, praticamente l'ho rivestita. Ma e ce l'hai in casa o l'hai rivenduto? No, purtroppo l'ho fatto ormai 15 anni fa, non è mai stata in casa mia perché ho fatto slochi e cose varie, se la sta godendo un mio amico ormai da 15 anni. Ok, ok, Luca, grazie mille, buona giornata. Ciao, ciao. Ciao, alla prossima. Andiamo ad Olbia, in Sardegna, da Sandro. Pronto? Pronto. Ciao Sandro. Ciao Matteo, come va? Bene, tu stai bene? Sì, sì, non c'è malaccio, grazie. Bravo, senti, tu fai il ceramista? Sì, io faccio il ceramista, lavoro al tornio, ma lavoro molto all'astra. Quindi tu, quindi in questo caso, ad esempio, tu ascolti la radio in laboratorio? Sì, tutti i giorni. Ok, e cosa fa il ceramista esattamente? Beh, il ceramista parte dall'argilla, crea oggetti che poi mette in forno, li cuoce, dalla terracotta praticamente... oggetti ornamentali e talvolta ma anche decorativi. Io lavoro molto all'astra e quindi creo delle superfici sulla lastra che poi rimarranno impresse, e per fare questo raccolgo tutto quello che stimola la mia fantasia e che trovo in giro. Tu pensa che per venire in laboratorio tutti i giorni passo di fronte a una centrale di processo di rifiuti, e quando vado a buttare la mia il mio umido, il secco, c'è un cassonetto pieno di oggetti che mi sembra quasi un ladro della cuccagna. Ci trovo delle robe stranissime tutti i giorni. Ma farmi un esempio, Sandro, fammi un esempio di una cosa che hai recuperato. Sì, sì, per esempio vecchie lampade, che cassette della frutta con dei motivi geometrici. Ma e le trasformi le trasformi in un'altra cosa o le abbellisci? Li utilizzo per imprimere l'argilla. Ah, ho per capito. Creare un motivo. Ho capito. Verrà impresso la... No, abbiamo perso Sandro. E quindi raccolgo tutto quello che mi carta in giro che può essere utilizzato. Sandro, che tempo c'è adesso ad Olbia? È una splendida giornata. Benissimo, era esattamente quello che volevo sentirti dire. Grazie mille e buona giornata, Sandro. Ciao, grazie. Ciao. Stiamo chiudendo? Ma mi hai detto che chiudevamo dopo. Vabbè. Andrea ha recuperato una vecchia autoradio, l'ha installata sul suo muletto, così lavora e ascolta Radio 24. Grazie a lui, grazie a Laura Faggiti, Tiziano Bonini, il Genovesi, Stefano D'Andrea e Paolino Corleoni. Il mobile è sul sito come al solito, radio24.it, oppure Matteo Caccia Vendo Tutto. Domani vendo una maschera africana. Voi invece non abbandonate i vostri mobili sui marciapiedi, perché anche se sono solo oggetti, in fondo non sta bene. Love, love, love,